insegnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia a un gioco, è stupenda ma dura poco, poco, poco, poco. E finisce qui la storia di noi due, due ragazzi che si perdono. Piaceva solo far l'amore lì nella pineta, lì non ti annoiavi mai. Ti sentivi il fuoco nelle vene quando io ti amavo, quando ti stringevo a me. Ti piaceva solo far l'amore, ero innamorato e non mi accorgevo mai. Con gli occhi chiusi, con il fuoco dentro e con i pugni stretti non vedevi mai, mai, mai, mai, mai l'amore mio, l'amore mio, l'amore mio. Le tue mani. Ti è bastato solo qualche giorno per poter rifare a un altro quei discorsi tuoi. Chiudi gli occhi ancora con il fuoco dentro, stringi i pugni ancora, ora tocca a lui. Ti piaceva solo far l'amore, ero innamorato e non mi accorgevo mai. Che con gli occhi chiusi, con il fuoco dentro e con i pugni stretti non vedevi mai, mai, mai, mai, mai l'amore mio, l'amore mio. Mani. Son tornato lì nella pineta ed ho chiesto scusa, sì l'ho fatto io per te, per le offese fatte all'erba verde, al vento e dalle ombre, a tutti gli alberi che sai. Amore mio, amore mio, sei per me la più bella del mondo. E

questa tua corsa incontro all'amore ti lascia le spalle. Il tempo migliore. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. Questo nostro grande amore un mese fa non era niente, solo un incontro poco importante, noi sconosciuti tra tanta gente. Ma bastò quella serata, qualche parola, la passeggiata, mi ricordai che t'avevo già incontrata. Poi io mi fermai, un abbraccio mi inventai, con che dolcezza ti stringesti contro me, con quanta fretta io mi innamorai di te. Questo nostro grande amore un mese fa non era niente, ma poi io mi fermai, un abbraccio mi inventai, con che dolcezza ti stringesti contro me, con quanta fretta io mi innamorai di te. Questo nostro grande amore è la realtà per tutte e due, e ogni sera prima di dormire già vorrei svegliarmi per trovarti qui. Il tuo piccolo cuore. E ti svegli piano piano.